facciamo più caso. Sogniamo la rivoluzione dalle poltrone. Si salvi chi può. Se ci conviene e ci barrichiamo nel mondo che ci appartiene, così restiamo distanti ma continuiamo a sognare di unirci alla rivoluzione dalle poltrone. Si salvi chi può. Partite.